L'associazione Famiglia Arcobaleno, insieme con tutta la collettività del Rivolta Pride di cui facciamo parte, il 2 aprile convoca una manifestazione che vuole rispondere agli attacchi pesantissimi e incessanti che stanno ricevendo le famiglie con due mamme e due papà, quindi le cosiddette famiglie omogenitoriali, e che sono continuamente attaccate dai rappresentanti del governo e delle istituzioni. In questo momento il governo non solo non ha intenzione di emanare una legge per il riconoscimento delle nostre figlie, ma non vuole neanche uniformare le proposte europee che già sono in essere in tal senso, e sta facendo pressione anche su quelle poche sindache che stanno in questo momento cercando di agire in modo responsabile e quindi riconoscere sia gli atti di nascita formati nel caso di famiglia omogenitoriale con due mamme che le trascrizioni dei bambini nati all'estero da coppie sempre omogenitoriali, che possono essere sia formate da due mamme sia da due papà. Quindi la nostra necessità è quella di rispondere a questi attacchi e di invitare tutte le sindache a rispettare l'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità di fronte alla legge e che non devono subire alcuna discriminazione. Questo vuol dire riconoscere tutte le bambine nate da qualsiasi forma di famiglia. Tante sono le famiglie possibili, ma questo Stato, questo governo, in generale, purtroppo riconosce famiglie di serie A, B e C, bambine di serie A, B e C. Noi ci siamo definite volutamente e ci definiamo famiglie perché allo Stato, agli occhi dello Stato, non siamo famiglie degne di essere trattate come le altre. Noi siamo famiglie e soprattutto le nostre famiglie che in questo momento stanno ricevendo attacchi non sono le sole. La nostra situazione è la punta di un iceberg. Voi nel comunicato in cui appunto proclamate la manifestazione fate anche degli esempi concreti delle discriminazioni o delle situazioni che si possono creare proprio con il mancato riconoscimento. Certamente, il mancato riconoscimento non solo non tutela i genitori che vogliono assumersi tutte le proprie responsabilità genitoriali nei confronti delle proprie figlie, ma non tutela le bambine che nella pratica rischiano di trovarsi orfane nel caso in cui si riconosca un solo genitore, ossia quello che è in qualche modo biologicamente legato a quella bambina o che lo ha partorito. Quindi nel caso di, ad esempio, morte prematura dell'unico genitore riconosciuto, l'altro genitore sparisce e la bambina diventa adottabile, e quindi il genitore che ha voluto, cercato e cresciuto quella bambina perde qualsiasi tipo di diritto. La stessa cosa può accadere nel caso anche di separazioni conflittuali. Siamo famiglie come tutte le altre e quindi può ovviamente accadere anche questo. Come sappiamo, raramente le separazioni accadono in un modo civile o comunque in un modo in qualche modo semplice. Spesso ci sono delle conflittualità, vale per tutte, e in questo caso, anche in questo caso, il genitore che non ha alcuna responsabilità riconosciuta rischia di perdere tutto in caso di separazione. Questo di nuovo è un danno che va alla bambina, che perde all'improvviso la tutela e il riconoscimento di un genitore. Per noi vuol dire anche, banalmente però, non solo una tutela dal punto di vista legale, ma vuol dire anche una mancanza di riconoscimento, una mancanza di tutela in tutta la nostra vita quotidiana, nelle relazioni sociali, con le istituzioni, a scuola, in ospedale. E se ci si reca in ospedale e c'è un genitore che non è ancora riconosciuto, quel genitore non ha alcuna titolarità, a dare un consenso informato, non ha alcuna titolarità a rappresentare la propria figlia nei consigli scolastici, nelle scuole. Quindi per noi è una continua lotta e una continua situazione e percezione di esclusione dal resto della società. La manifestazione di domenica come si svolgerà? La manifestazione di domenica inizierà alle 4. Avremo tantissimi interventi, siamo riusciti a creare, speriamo che ci raggiungerete in tanti, una rete bellissima. Sono più di 50 già le adesioni che abbiamo ricevuto a livello regionale, perché questa è una piazza chiamata a livello regionale proprio perché volevamo dare una risposta univoca a tutti questi attacchi e coesa tra tutte le realtà associative della regione. Grazie all'enorme supporto della rete LGBTQIA+ di Bologna, grazie all'enorme sforzo che abbiamo fatto come Rivolta Pride, riusciremo ad avere una piazza ricca di interventi, ma anche allo stesso tempo molto accogliente e inclusiva per i bimbi, per le bambine. Quindi avremo laboratori, ma anche tantissima musica. Soprattutto in caso di pioggia, non vi preoccupate, perché l'arcobaleno lo portiamo noi.